Unità 1. Grammatica. Traccia 6. Ciao, bella festa, vero? Sì, la musica è bella e la gente è divertente. Come ti chiami? Paul, e tu? Io, Stefano, non sei italiano, vero? Di dove sei? Sono inglese, sono in vacanza in Italia per una settimana. Conosco la festeggiata, sono ospite a casa sua. Cioè abiti qui, in questa casa? No, no, questa è la casa di Martina, l'altra festeggiata. Io abito a Firenze, a casa di Viola. Ma allora sono due le festeggiate, una di Torino e una di Firenze. Esattamente, sono le due amiche pesciolini